ha fatto un tatuaggio dell'Opel, ha fatto siccome tu hai già rifatto, capito? E l'ha detto, ha detto non devo comprarmi il guarda, no, dice no, proviamo, ma facciamo tutto noi. Infatti hanno fatto il tatuaggio direttamente e stato direttamente attaccato, eccetera, eccetera. Però la prima scorta non vira, ma dice c'è. Vieni, dirla che te la domanda, ascoltami come è andato, per cui la rotoscorta è necessaria, lo guida, ma come non mettavo più, infatti si buca, che ha strada, come si fa, che casino, per cui la rotoscorta si buca per forza, se ci vuole per forza, capito? Però non lascia, qui si blocchi, non lascia, va, vieni giù. Dai, sono qui tra te, però, prima o poi la parola che mi rabbino a te, sì. Cosa ne sai, magari ti attacca a bocca a parte, su quello vecchio, cosa ne sai, ti dai di vino, ti dai di trucchi, cosa fai, la cruzza a relichi per anni, guardato per la roba, così mi arrasti quattro quando sto, ma tu prendi, e lui ti come vuole a contare scorta, io me la porto in braccia, lì in Viale Porto Torre dove ho comprato lo stesso il carrello. Quando mi ha preso la duna, non ce l'avevo, no? E gliel'ho chiesto, non è che tu mi venia, se mi rubiava i miei quasi 3 milioni. Lasci perdere, non mi interessa più. Ma mi ha dato la macchina, la gamba e me la recuperava più, io l'ho preso solo. 1.200.000 lire e più il bollettino per fare l'abbinamento alla macchina, alla motorizzazione. La di chi mi toccava, un po' la cosa, se mi hanno abbinato alla macchina. E che ti ne vogliano 3 milioni vogliano in più? Allora, chi scemo su? Grazie. Scusa, sono altro Ayanna, e c'è questa fabbrica di duri fa vedere. Stavo dicendo. Per quando mi avevo comprato la duna, mi voglio abbia per un carrello. E ho chiesto quanto mi veniva insieme alla massa. E superava le 3 milioni, superava. E la dice, no, la superava, non mi interessa più, ma andare solo la macchina. Invece poi cosa ho fatto io? Sono andato, ho chiesto quanto costava, non lì in Viale Porto Torre. E mi ha detto 1.200.000 lire, questo qua. Allora mi ha giubilato, mi ha fatto la finanziaria e mi ha giubilato. Ho fatto solo la prenotazione per l'abbinamento alla macchina. La di sversamento 20.000 franchi e me l'aveva pagato. Sono andato là giù con la casa e mi hanno abbinato la macchina. Boh, e chi ti ricordi 3 milioni che hanno abbinato la macchina? Hai compreso, non so più. Vedi, guarda. Guarda, è buttissimo allora. Ma io quando... Maledetto dice, lascia la macchina qua stamattina e stasera dice, li telefoniamo. Sono la mamma da Mattesi, perché ho la sera, no la sera, sto andando. Ma c'è mai che fa, andate a pigliare che era tutto pronto, forse rugato la macchina, e il carro è attaccato, guarda, era sbagliato, mi aveva fatto i documenti. E dico, mamma, se con la motorizzazione me l'ha ancora dato, a posto. Un milione e mezzo, una cosa del genere ha sbagliato, in tutto, dai. Tutti i miei vanno mangiati, 300 euro, senza bannuta. Ma lo vedi, 300.000 franchi vanno mangiati, senza bannuta. Ma lo vedi, e allora che periodo vi regalai? Che ci fate di 90. Ma di trovo non la più perdo, ho cambiato idea, non mi interessa più. Dice, ma a me che insieme alla latte, no, non mi sta messo a più, vuol dire, un indomani ci penserò. Quando mi sono andato da chi mi dà due giudici, sono andato da un anno. E mi veniamo 1.200.000 lire, e ho speso io 1.220.000 lire, dove passa? volte venivano là che costava di manco, costava, però lo prendo a mano, no, questo no, no. Io lo voglio perfetto, completo lo voglio, che è già me l'hai dato completo, per cui, da di su per cui. Capito, quanti anni l'hai in su carrella va? Io quello lì ce l'ho, praticamente mi sembra dall'89. Prima del 2000, quando ci brava la macchina ci brava, 3 mesi la buona macchina ci brava. E là, nuovo, cazzo. E nuovo 30 ancora, capito? Perché hanno scaricato tutto il materiale. E in fondo, ci posso come si chiama? Si vuole il pavimento, va a far culo, abbiamo un pezzo mando, e la ci dai la misura, e la ci posso lasciare sotto a fondo. A voi le fiancate, e la ci posso lo gasto di grosso e per cui non ho la manco graffiato nulla, non so cos'è, però ripeto, mi manca solo la roba di scorta, chi sono un beutto, io ce l'abito, ma non l'abito, dai non so cosa accendere, mi faccio un bel stato Dio a comprare a mira, capito? Allora va, capace magari lo so domani l'abito per dire, no? Ma la roba faccio fuori di Maria, non si sa mai, di buci via, puttasse brugare che cosa la casa tua, parlo figlia una mossa, chiudi una mossa. Si costa un mese di là, io non mi avevo pensato per quello far campagna. Un viaggio di vaporetta, allora, tutto un carico di sabbia, 4 sacchi di cemento, 30, 40 mila franchi, ma il materiale pagavo così, ma per la voce, là la becchina, no, sto quando che me l'hanno comparato, arrivato la moto, mi avanza l'imbusciata, a chi gli devo regalare, ma per la voce, e poi è comodo, perché l'ho usato parecchie volte a portarci mobili, un sacco di cose. Ma prima lo trattavo qua a travaglio, quando mi scende travaglio a consumeo, capì? E però, già l'ho trattato, ma io non l'ho trattato, in campeggio, l'ho usato. Chiaro voi qui si lo brigio, se no a me fare non me ne domande. Uno la lì è giusto a vederlo, veniva già stato, questa è la nostra situazione, tanto si deve avanzare un poco di monte. Ma perché dici risotto, trento, ha detto ma cosa sta guardando, mi non c'è niente, nuovo, lo vi. E tu è soprattutto in campagna, questo al telefono, se lo vuoi il prezzo è quello, se no niente la faccio, ma dice sì. Allora mamma dice, ora deve qualcosa di meno, la distanza cosa, non sappia i miei di chi sta parlando, ma come l'ha fatto, c'è per dirci. Allora se gli dico, ma come si mi dà che sei di là, e me ne sono andato. Faccio bene, anche là è un po' fuori, sì, di là, grazie là. No, io sto a venire, no, assisi là, assisi, ho a me figliore per assistere, sicché per cui, in un museo, in un locale di Tarraglia, ne capito? Certo, allora, no, da servire sempre, capito? Io, cazzo, ci metto 40 blocchetti la ricca, da cosa, da, di fronte a Golforama, a me, un disegno materiale e dei regivi, e 40 blocchetti, da Desi, 30, Desi 30, io. Se puoi immaginare, ma già come c'è il rubi, ragazzi mi fai il rubi, io faccio il rubi di grosso, però mi pare di rubuio, però non so che cartelli andano, ma che abbandato faccio il libretto, a cartuata che si come. E lo posso a tu, già tra tu la tua casa, tu, e gli chiusi mi faranno la zura, è vero, lo devo abbandare solo a due, già tra due le ho fatte. No, ma cos'è? A me, a figli usci, quando fratello, praticamente amici usci, è trattato una cosa mia moglie di papà. È precato, invece io cosa voglio fare? Appena mi vino mi scuffo e bacio. Mi penso la macchina, se non lo vedo imparare a correre, e mi voglio pigliare una di questi macchini tipo furgonetta, allora mi chiama una manna, e sta più minore. A me viene a fare il buco e mi posso trattare di scoprire, tanto mi migliore ma tra me che non mi vede. Vai a due rubi, mi posso dire, poi devo fare la campagna e non mi ha tutti in da di nessuno. Ah, ti vado a scusare il cavolo, se non mi ha regalato nessuno a prima. E vado a cascione, tutto fatto, chiuso con lo sottello al fianco. Si apre, scorrevo, lo sportello dietro, si apre a libero e che c'è anche il ciuccio dietro, si fa giocare che cosa di longulo, altro del ciuccio e un buon drittino. Ma altro di carrello quasi. Beh, quello di Pugliese andava a sì. E anche quintale di biglia lo do io. Mi sembra che sono 4 o 5, una cosa del genere, ma io ne vogliamo di più me. Allora la vista di un buco, o tu carriolo di sabbia, due di bricciolino e 4 sacche di cemento, pusate e abusate, però era tranquillo. Aspetta. Per la sabbia la busta, gatta, era pieno, gatta, una penna mi si era confinato, gatta, e si è pulsato, gatta. A parenti la fare il culetto, gatta, a frenare, non frenava, si frenava, gatta, io macello. Da poi la strada, gatta, è prima che ho cazzato, gatta. Dopo la fatica, gatta, è pieno, poi l'hai chiuso a punta, la sabbia, gatta. Il rosso è a tavoletta, la mamma mia, tu. Io ho il coppia di qualche rosso e faccio un'inserzione, cazzo. E per male sono riuscito a non far danno e sto che c'è un tranquillo, però io non lo carregaggio più, sì. La mette la sabbia, capito? Blocchetti, 40 blocchetti, la giubilà, però. Non mi ha dato, ma chi lo mette che andate a buttare la sabbia, capito? No, a crepatura non rubiene. Allora io la gatta me la giubuxa con la pala, con la penna, non ci mi rubriva, no, con la pala. Allora la carriola è 15 palate di sabbia, da sbarria la giubilia, dalle buchi, vera è tu, ma se tu mi piglia di la pala è lì. Ha detto, io mi costo di palazzi, mi ha detto me la voglia con la penna, ha detto no, là la pigli, dammi la palla, dammi la pochino, non ti preoccupi. E facevo 15 e segnavo una chiave, la buia, i vizzino, una carriola, se non la per pigliare un conto. A quei 15 due carriola, a quei 15, ma per ti pieni di palazzi, no? Se tu fai i 15 palate belle piene, e lei c'è una carriola. E mi ha giocato, ah, se arrivi già, se botta, se la mi quel bricciolino, mi sono spostato, ho messo il bricciolino, e poi li 4 sacchi di me. E non era nemmeno a crematura, e c'ho banda di avena, a uccia, ma è delle russiche, era baciato, però tutta la strada risata a due anni fatta tranquilla. L'ultimo pezzo, il terzo è scalato, il secondo, va bene, io vi porto più, dritta dritta, in tranquilla. Beh, se lui è chiaro, ma io vi... la macchina a due, che forse era mia, la mia è bici, era due, perché... Anzi, 1200 la due, no? Allora, la mia di cilindrata è 1240. Ecco, questa è la mia migliore, che chiede, ma già, ci butterà stare questa, ci butto la prima, io, si può immaginare. Ah, poi a chi anda più piano, pure, ma che la dimentica, cioè io si chiama la surruta, capito? Io che senti, era troppo, cazzo. Infatti non le caricheggio più roba del genere, che proprio poi vedi. Se a che cosa che ti strada per traffico, ha rovinato tutto il braccio, quello allora non andava più, no, non andava, per cui è fatto. Mi dovrò pigliare sabbia, ma gli istituisci. Ecco, e quindi si è parlato, è una carriola, questo che mi dicevi due o tre carrioli. Sto qui a quanto barati c'è una carriola, capito? Mi ci puglia della carriola, andai sabbia in campo. E poi 15 barati, e vedi che dici, la carriola piena, va proprio a filo si esce. Abbiamo di caccionetto di carriola. Sono 15 barati una carriola. A me me l'aveva parlato Marco Gesuino quando non aveva la carriola, mi diceva già tra me che la sei parlato giù, oh, una carriola, e io gli andavo a me, allora fammi nei quattro carrioli, compreso, oh, fai 5 di bricciolino e 4 di sabbia, e facciamo così a conto, no? Quando non aveva la carriola, quando dobbiamo gittare qualche cosa, minorita, allora facciamo così. Allora poi mi avevo la cantarella, tanto era due passi e si buttavo così. E sempre me lo ricordo quello, se tu domandi a praticamente così che non è proprio di chi si buccicacca, ma con il zappo. Beh, senz'altro, io per esempio non ne sabbia, e no, magari non so che praticamente, però non sabbia, però vai tu, ma tu sì. Quindi si parla di una carriola, eppure voglio provare, voglio provare, perché mi rendo conto che è così, come ti sei tu, capito? Voglio provare, sì, ma qualche finocchia, aspetta, che da mani da volta, ma la bevo la bella della mamma mia, cazzo, e non mi sapevo che aveva cribato, la gioia si è fatto. E per cui la dimentichi, la parata era salda, capito? Ma che rosi era la tauretta, era troppo caro che io. Nel sacco finirà di più, però non ne poco più col peso del genere, ma certo, è pericoloso, capito? Sì, a parte c'è pure un ballastro, capito? Cui bisogna andare con le regole, poi buonino, so, 2 o 3 kg in più, magari 10 kg in più, però non di più, Allora, uno se tu lo carichi un bene, si è osservato quando ricarica un bene, se guardate dallo specchietto, vedi che il carrello non tira dritto, va verso sinistra e verso destra, verso sinistra e verso destra, a chi lo travaglia a livello con bastone, con friso, a chi lo vede tru, quattro, ti è andato a bene. Se mi è andata bene, cazzo, mi vedi, mi è andata bene, sì. E meno male, ma voi che verrà che fossi da rete San Camillo, voi vivi, magari lasciate un bel posto, per cui andavo piano, guarda, anche qui che fate ai su, il culettava lo guarrello, capito? E infatti, ma va il gioco, non ne posso più, mi sembrava leggero, bisogna stare attenta, che è pericoloso, cazzo, ma scherzato. E purtroppo il parasassi è fuori dalla parte di Zaghiglio. Bene, grazie a voi, siete finti, so. Pensate il gruppo, io però me lo sono pensato il gruppo, per cui ne approfitta, va. Chi so che sarà, che mi fate male, buoni giappi e sposate che c'è Gadria. Approfitto. Grazie, la chiacchierattina, grazie a voi. A domani se coincide. Buon proseguimento, saluta in casa e a domani se coincide, grazie a Ehi, ciao, saluti ricambiati al 100, alla prossima, domani, se Dio vuole, va bene, ciao, saluti in casa, ciao. Ok, ciao, grazie, ciao.